Ma è un po' che non lo vedo, ma penso che lui in effetti anch'io non ci passo tanto spesso. Infatti l'ultimo ci sono passato due volte, però la volta che ci sono passato l'ho postato su Facebook e ho avuto un sacco di reazioni, perché comunque c'è soprattutto Facebook, non so se tu sei su Facebook, ma ci sono stati un sacco di hanno detto un sacco di cose su sto orangutango. Ma poi magari ne parliamo dopo. Prima volevo farvi sentire un pezzo che è uscito, non mi ricordo qua, uscito il 24, per cui 3 giorni fa, che si intitola Due Sassi ed è una riflessione sul nostro atteggiamento di fronte alle difficoltà. Una dedica ai ricordi condivisi e alla capacità di resistere. Questi sono i Manitoba, il pezzo si intitola Due Sassi, è uscito il 24 maggio per Pioggia Rossa Dischi e ringraziamo Agnese di Pearl Press che ce lo manda e noi lo ascoltiamo, eccolo qua. Strano trovarsi di nuovo qui, accanto al fiume dove io e te, io e te, abbiamo preso le biciclette e siamo corsi verso la città. Non sappiamo restare in questa corrente, ma guarda quei sassi là dentro resistono. Vi sto alzando, per cui smettetela di parlare oppure continuate a parlare, ma in realtà non ti ho neanche presentato. Abbiamo Mattia Lullini di Neven, che è già stato qua non molto tempo fa, e beh, siccome appunto inaugura una nuova mostra, una doppia nuova mostra questa settimana, ti abbiamo reinvitato. Chi inaugura questa settimana? Inauguriamo due mostre di due artiste di origini differenti, ma ad entrambe di base in Norvegia. Abbiamo Uda Iselin Sønderland, che è un'artista irlandese e norvegese e forse una delle artiste che abbiamo più a cuore con la galleria, con cui collaboriamo da tantissimo, che apre la sua personale più grande da sempre, questo giovedì qua a Bologna. E Neun Kang, un'artista sudcoreana che ha studiato tra Olanda e Norvegia, ma che presentiamo per la sua prima personale di livello internazionale anche lei qui giovedì a Bologna. Super, E sono tutti già qui che stanno installando, hanno installato, come sta andando? Ma Uda è qui da un paio di giorni, ha già fatto maniera di visitare la città e quant'altro e sta installando. E mentre Nine dovrebbe essere atterrata in questo momento, si spera. Magari la sentiamo passare, visto che come al solito siamo molto vicini all'aeroporto e oggi è abbastanza caldo da tenere la finestra aperta. Ma ho una domanda, in effetti, con tutta la vetrata che avete, quando installate cosa fate? Nascondete tutto o lasciate tutto bello in vista? Non nascondiamo niente, è qualcosa che nel tempo è diventata una specie di piccola filosofia a suo modo. C'è qualcosa di divertente, di bizzarro, io credo di interessante nel lasciare i visitatori, i passanti a guardare un'installazione. No, perché il passaggio ce l'avete in strada maggiore, c'è un sacco di passaggio. Sì, sì, già oggi è iniziato, che abbiamo iniziato ad aprire questi dipinti incredibili della Sonderland. La gente stava già facendo foto dalle finestre, tipo no, aspettate un secondo. è il bello del non nascondere quello che stai facendo, perché tante gallerie invece mettono un paravento. Tu quando hai esposto il gorilla l'avevate nascosto o è uscito così? Tu l'avete messo e buonanotte. Avevano transennato l'area, ma per motivi di sicurezza. Certo, perché se ti casca un orangutan, quanto pesa quell'orangutan? 1200 kg. 1200 kg, che sarebbe una tonnellata e due o un quintale e due? No, una tonnellata e due. Hai capito. E come è nata questo orangutan davanti al comune? Perché fra l'altro c'ha una faccia, come dire, non lo so, non è proprio, non sembra entusiasta della sua posizione. Ma sì, allora diciamo che il progetto è nato su iniziativa di Rita Finzi, che è la presidente della New Duc, che è la società che ha costruito e che ora gestisce il comune, mm-hmm. gli uffici comunali. E lei mi aveva chiesto, dato che comunque da anni la conosco e anche mi segue, mi aveva chiesto di presentarle un progetto appunto per l'area esterna degli uffici comunali, e in particolare lei mi aveva chiesto dei leoni, mm-hmm. che sono... Ah sì, perché in effetti Davide Rivalta, per chi è un po' distratto all'ascolto, è l'autore dei leoni che avete visto sicuramente sulle scale della GAM di Roma, che ogni tanto si vedevano anche al telegiornale, no? Sbaglio? Sì, non erano leoni, perché ho la tendenza a sbagliare animali, ma vedo che tu sei molto ferrato sono leoni quelli sono leoni, infatti appunto la presidente Rita Finzi mi aveva chiesto alla fine di riproporre dei leoni come simili a quelli, perché poi sono anche nello stemma araldico del comune di Bologna, quindi certo. Mi immagino avesse pensato anche a quel collegamento. Beh, che problema c'è? Cambiamo lo stemma araldico del comune e gli mettiamo un orangutan. Infatti ho pensato che con due tram che si incrociano di dietro. E infatti niente, sì, io ho pensato che per i nuovi uffici comunali, no, alla fine in un'area di Bologna che guarda al futuro, no, che è fuori anche dal centro storico, mm-hmm. fosse più bello proporre un animale che appunto guardasse il futuro, che non ha la storia della città. Perché chiaramente il mondo diventerà comandato dagli orangutan in futuro, quando gli esseri umani si estingueranno, probabilmente gli orangutan diranno a questo punto ce lo prendiamo noi. Ma diciamo che comunque lui sembra appunto una presenza catapultata da lì, mm-hmm. da non si capisce bene dove. E infatti questo credo che abbia anche suscitato le maggiori perplessità nei bolognesi, mm-hmm. ma devo dire che penso che anche questo sia una delle caratteristiche fondamentali di quell'opera lì, mm-hmm. cioè il fatto che di fronte a lui ci si domandi ma che ci fa qui, perché certo. comunque che è un po' quello che ci siamo domandati quando hanno costruito il comune lì. Anche quello. Cosa ci fa il comune lì, di tutti i posti dove poterlo costruire? Sì, beh, diciamo che io non mi avventuro nell'architettura e nell'urbanistica, ma posso parlare d'artista e mi piace dire che gli artisti non devono arredare la città, certo, ma devono il nostro mestiere è un altro mestiere, mm-hmm, per cui non dovevo abbellire una piazza e, certo, e quindi insomma creare, diciamo che nella mia città mi piaceva come mia unica prima e unica presenza avere una scultura che mi rappresentasse con forza, ecco, credo che quella riesca pieno, ecco, a rappresentare anche un po' me, ecco, certo, in quel e credo che lì sia particolarmente adatto sia da un punto di vista formale, mm-hmm, e quindi anche di rapporti volumetrici e anche di prospettive nello sguardo, con proprio quell'architettura, anche con i colori, no? Certo. Ricordo che oltre il nero che si vede comunque in altre parti della piazza, l'orangotango anche ha degli occhi di vetro e che alla fine è un altro materiale molto presente nell'architettura, certo, in quella piazza lì. E poi proprio per credo che la forza del primate sia un bel segno, ecco, un bel segno coraggioso, mm-hmm, credo, anche da parte dell'amministrazione. No, infatti, devo dire che il fatto che te l'abbiano accettato mi ha anche un po' sorpreso, devo dire. Sì, un leone sarebbe stato tutto molto, sì, più tranquillo. Sicuramente molto più tranquillo, sì, penso. Sentiamo cosa ha da dire Marco Roma. Voi dovete sapere, anzi, Mattia lo sa, ma tu non lo sai perché probabilmente non ci hai mai ascoltato, che noi abbiamo un fantastico Marco Roma che ci canta un piccolo jingle tutti i giorni a Radio Città Fujiko. Non so se altre trasmissioni lo fanno ascoltare, ma noi sì, perché Coxo Spaziale non può non essere super democratico, per cui sentiamo cosa ha da dire Marco Roma sul tuo gorilla. Buongiorno, il mio buongiorno è fatto così, con lo zucchero dell'amore. Il mio buongiorno te lo dedico così, sempre radiofonico, e mi chiamo Marco Roma. Buongiorno a tutti voi. Fantastico. Nulla da dire, è innamorato di nuovo, per cui siamo tutti molto contenti. E poi invece, no, invece la settimana scorsa io ti ho visto su Instagram con Mattarella, cioè cos'è sta roba? Dove eri a Dublino? Dove eri stavolta? No, eri in Norvegia. No, era a Dublino. Ah, lì eri a Dublino, ok. Dublino, sì, sì. Uh-huh. No, perché in effetti, adesso per chi non lo sa, perché poi naturalmente i nostri radioascoltatori, magari alcuni sono ferrati di arte contemporanea, per cui sanno tutto, ma altri un po' meno. E appunto quello che non sanno è che tu stai facendo sculture in giro per il mondo, dovunque, le Seychelles oppure ti ho visto su Instagram installare nei posti più disparati, e invece l'altro giorno ti ho visto con Mattarella di fianco. Cosa voleva Mattarella da te? Sì, allora diciamo che Mattarella è venuto usando le parole dell'ambasciatore, mm-hmm, per dare solennità a un evento che, okay, è stato l'acquisizione da parte del comune di Dublino, mm-hmm, di un grande parco, mm, e di una grande villa, e all'interno del grande parco e della grande villa ci sono 8 mie sculture. 8? Okay. Forse 9, mm-hmm, 8 bufale e un cavallo. Hai capito. E appunto il presidente Mattarella e insieme al presidente anche irlandese sono venuti a cavallo. No, sono venuti in macchina anche perché, okay, sono un po', sì, due un po' anziani, mm-hmm, anche. Comunque è stato veramente un evento molto bello. No, immagino che anche per te, infatti, molto gratificante, cioè, sì. Voglio dire, molto, stringere molto la mano a Mattarella. Cosa ha detto delle tue bufale? Abbiamo fatto un piccolo percorso, uh-huh, anche nel parco diciamo che Mattarella già conosce il mio lavoro perché io ho anche due leoni al Quirinale, ah, sì, certo, e un cavallo a Castel Porziano, mm-hmm, il cavallo tra l'altro è lo stesso che è a Castel Porziano e anche all'interno della Lucan House, che è questa grande proprietà. Era proprietà dello Stato italiano perché era la casa dell'ambasciatore a Dublino italiano, e però che è stato deciso di portare la casa dell'ambasciatore in centro, in città, e quindi di vendere questa proprietà, che era anche una proprietà forse anche anacronistica, perché era veramente immensa, con un parco con alberi secolari, una cosa diciamo anche molto complicata da mantenere e poi anche scomoda, ecco, probabilmente. E quindi niente, è stata una festa, ecco, anche per me, ecco. Ah, certo, assolutamente. 333 180 94 94, se volete chiedere a Davide Rivalta com'è incontrare Mattarella o se avete qualcosa da dire sul suo gorilla, questo è il momento buono, anche perché Davide è occupatissimo, ci ho messo un mesetto per riuscire ad averlo in trasmissione. E dunque, qual è il tuo prossimo progetto? Dove stai mettendo altri animali in giro? Allora, adesso devo portare... Se puoi dirlo, perché naturalmente sì. Lo so che alle volte alcune cose non si possono ancora raccontare. Diciamo, proprio il prossimo, che è prima dell'estate, sto facendo un'altra fusione dello stesso orangotango bolognese, okay. E lo porterò a Stadt. Che è in Svizzera, sì. E questo è proprio il prossimo evento, però non è proprio una vera e propria mostra questa. Le prossime mostre le ho diciamo in Medio Oriente, ma in autunno, e non so se posso parlarne, quindi forse certo, è meglio tenere tutto tutto nascosto, perché poi non si sa mai, porta sfiga. Sì, poi mi avevano diciamo mesi fa mi avevano detto che era top secret, adesso non so se lo è ancora, penso di no. Vabbè, tanto il Medio Oriente è grande, per infatti per ora non ci preoccupiamo. Esatto, insomma, e poi dubito che mi aspetto che qualche medio orientale stia ascoltando la radio Città Fujiko in questo momento, ma non mi aspetto che vada a telefonare al proprio presidente della Repubblica per dire: guardate che Rivalta ha spoilerato tutto. Molto bene. E tu naturalmente, Mattia, conoscevi il lavoro di Davide Rivalta, sapevi che veniva anche da te? Ma ero a conoscenza, non mi aspettavo dell'incontro oggi, ma quella è stata un po' una sorpresa che è venuta che è venuta bene, nel senso, ma sì, non sapevo sarebbe stato sia in Svezia che in Norvegia, entrambi i paesi familiari ultimamente. Ah, certo, perché ricordiamolo per i nostri ascoltatori distratti, appunto, Mattia ha la galleria Neven, che è sia a Göteborg che a Bologna. Oddio, ah no, questo è sto usando YouTube come musica di sottofondo, no? Ogni tanto partono le pubblicità, dicevo, chi è che parla? Eccolo qua, è tornato il jazz. Giusto? Esattamente. E appunto fai una mostra di qua, una mostra di là, saltellando tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud come una trottola. Esattamente, Neven dalla sua nuova incezione qua in Italia è voluto diventare questa nuova realtà che vuole precisamente fare da ponte e riuscire a intrecciare un programma che avviene in contemporanea sia all'apice o al centro del nord Europa, dove si trova Göteborg, e in un posto cruciale come Bologna, nell'area mediterranea, e a Bologna e in Italia per quanto riguarda il programma sud-europeo, e allo stesso tempo precisamente anche nelle mostre, nel senso, su a nord abbiamo iniziato a sbilanciarci verso un programma che porterà più italiani e più in realtà un'esperienza. Diciamolo piano, che sennò poi ti assillano tutti quanti. E mi hanno già trovato tutti l'email e l'indirizzo. Ok, fantastico. No, la realtà di Neven poi è anche il fatto di essere un progetto pubblico, un po' più particolare di una galleria commerciale, quindi anche su quello non abbiamo troppa paura. Però sì, portare qua giù in Italia una prospettiva che rimane internazionale come programma che ha sempre fatto la galleria, ma che specialmente in questo primo anno vuole portare tanto di quella che è la nostra esperienza su al nord, e quindi precisamente così, e queste due nuove mosse che arrivano sono di nuovo due artiste che vengono su da nord. Non faremo solo artisti nordici, quindi certo. Non, no, io ti devo anche, cioè devo anche dire che mi ha fatto molto piacere vedere come si chiama lei, Kristalova all'Accademia di Belle Arti, dove fra l'altro Davide Rivalta insegna, è anche coordinatore insegna scultura naturalmente, ed è anche coordinatore di arti visive, e no, è stato molto molto piacevole appunto avere Clara in giro per le aule a farle vedere un po' di quello che facciamo in Accademia. Cioè è un bello scambio, decisamente. Assolutamente, anche perché precisamente in queste dinamiche, o anche in queste dinamiche, pensiamo che quello che fa il nostro progetto si voglia piazzare più verso una proposta pubblica, nel senso, e come abbiamo fatto in Nord Europa per tanti anni, che è stato approfondire collaborazioni con istituzioni o luoghi più aperti a per un pubblico generale che magari si osa meno avventurare dentro una galleria d'arte, e portare appunto i nostri artisti o artisti internazionali che altrimenti sarebbe difficilissimo incontrare. Clara Kristalova, che è un artista che ha esibito ovunque, dall'Asia a dovunque uno possa immaginare, con gallerie in mezzo mondo. Era la prima volta che aveva un evento pubblico di questo genere in Italia, ed è stato favoloso portarlo all'Accademia di Belle Arti di Bologna e portarla in giro qua a Bologna. Assolutamente, è stato favoloso per noi avere un artista di quella caratura, poi essere così disponibile nel... Io le ho fatto due domande super, cioè in cui poteva tranquillamente dirmi fatti i cavoli tuoi, invece è stata molto disponibile e mi ha raccontato tutto quello che non mi doveva raccontare o che poteva non raccontarmi. Detto questo, è ora delle pubblicità delle 20:30, perché sono le 20:32, e dunque facciamo così. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Eccoci qua, che siamo ritornati alla nostra, non mi ricordo già più, 491esima puntata. Cavoli, mancano solo 9 puntate alla 500esima puntata. Mia, come facciamo? Ti tocca, cioè, o fai sto figlio subito e poi vieni col figlio, oppure mi toccherà di ritornare a chiamare Fedra, che non sta aspettando altro. E diceva, no, stava parlando di Mattarella, della festa di Mattarella a Dublino e delle bufale, che no, comunque voglio dire, il tuo lavoro, per chi è un attimo attento, in televisione è stato visto più di una volta. Io tutte le volte che guardo TG1 inquadrano oppure hanno delle immagini dei repertori, perché poi i leoni non sono più sulle scalinate della Gamma, sì, giusto? Sì, ci sono ancora. Sì, sì. Ah, ok. Sì, erano stati per un... Perché una volta sono venuto a Roma e non c'erano, allora dico, ma com'è possibile che tutte le volte li vedo al telegiornale, ma non dal vivo? E sì, invece le vanno spostati per un po'. Allora, i leoni sono stati... Allora, sono lì sulla scalinata dal 2017. Sono stati sostituiti da due gorilla per 6 mesi. Hai capito? E poi dopo per una ventina di giorni, quest'autunno, sono stati sostituiti dall'altra scultura, non mia. E poi adesso sono tornati, ma da una ventina di giorni, però hanno cambiato posizione perché la nuova direttrice ha voluto così rinnovare l'immagine esterna della Galleria Nazionale. Allora li abbiamo spostati, li slocati in maniera diversa. Ho capito. E in maniera diversa, diciamo che non è secondo me solo uno spostamento così di facciata, ma alla fine c'è proprio anche un'idea diversa di quel lavoro che emerge, e che è anche parte l'idea della nuova direttrice. E ti va bene anche questa volta? Sì, secondo me va bene anche così. Ok, molto. Chi è la nuova direttrice? Scusa l'ignoranza, ma si chiama Renata Cristina Mazzantini. Ok, no, perché so anche che tu sei molto ferrato con i direttori dei musei, giustamente, poi, visto che ci lavori con sì. Non dico quasi tutti, ma comunque. E altre, tu hai un sacco di altre sculture in giro che sono fisse, giusto? Cioè che sono state acquisite e che non si sposteranno. Sì, adesso. Cioè, mi ricordo per esempio il Tribunale di Ravenna con tutti questi gorilla fantastici che non ho ancora avuto occasione di vedere dal vivo, ma so che sono lì, che mi aspettano. Sì, a Ravenna sono all'interno del Tribunale, poi a Ravenna ci sono anche delle bufale a Santa Apollinare in classe. Certo, è vero, quelle le ho viste. Poi per una mostra già da qualche mese fino a settembre c'è un gorilla anche sulla spiaggia della Feniglia, mm-hmm. che è vicino a Dorbetello. Ok. E poi sì, cioè ho una scultura, ho diverse sculture in Svizzera, in mm-hmm. particolare a Neuchâtel, okay. dove ho molte sculture in città e in un parco che si chiama Château de Vuren, è sempre in Svizzera, che è un parco, diciamo, che ha un'attività pubblica. E poi ho anche a Mougin, nel prato di fronte a Notre Dame de Vie, che era la piccola cappella adiacente alla casa di Picasso. Hai capito? E lì ho una bufala che è molto taurina, quindi mm-hmm. con le corna molto aperte, che è un po' un omaggio anche a Picasso. Ho capito. E il comune l'ha comprata. Grande, sì. Ma e fai sempre animali, non hai non sì, quasi non solo. Fa, no, infatti, no, quasi cioè, stavo solo. Pensando a proprio a questa cosa, che a parte forse una scultura che è ancora, no, fu qualche resto di scultura che c'è al Collegio Venturoli, dove tu avevi una residenza, che lì ci sono degli uomini, giusto? O lì qualcosa sono... del genere. Sì, io penso di aver sempre solo visto degli animali da parte tua. Da allora, sì. Allora, diciamo che al Collegio Venturoli era stato il mio studio da ragazzo, quando ero studente, allora mm-hmm. facevo ritratti di persone. Poi con la conclusione degli studi sono passato agli animali, ritratti dei primati, e poi gli animali insomma in senso più aperto. Però ultimamente sono anche tornato a lavorare un po' sulla figura umana, tant'è che una scultura che è sempre in un luogo pubblico, sempre in Svizzera, mm-hmm. Adiacente a un'abbazia cistercense, è una coppia di una figura maschile e una femminile, che però sono unite in un solo, diciamo, nucleo formale. Ed è una collaborazione con un artista mio amico che si chiama Emanuele Beccheri. Ah, dai. E comunque lavori molto spesso in bronzo. Sì, certo? Sì, anche quello in bronzo. Anche quello in bronzo. Sì, sì, sì. Sempre o in bronzo, alluminio o acciaio inox. Ho capito. Mm-hmm. Fino ad alcuni anni fa, anche, però non le faccio più, anche delle resine. L'ultima resine le ho fatte nel 2010. Mm-hmm. Adesso col bronzo ti diverti, puoi permettere il bronzo, fai il bronzo, giustamente, perché voi forse i nostri ascoltatori non lo sanno, ma il bronzo è sicuramente uno dei materiali più costosi e più complicati da produrre, per cui appunto penso che più del bronzo, cioè l'unica cosa che potresti fare è un gorilla di oro zecchino, capito, che possa superare il bronzo. Molto bene, adesso ci tocca di partire con l'angolo della menzione. Tu preparati, Mattia, per raccontarci tutto della mostra che inaugura, delle due mostre che inaugurano giovedì, perché io non so assolutamente nulla di loro, ma tu, da bravo gallerista, sì. E poi naturalmente prima raccontiamo anche tutto quello che succede, un po' delle cose che succedono a Bologna. L'angolo della menzione. E anzi, non me ne vogliano tutti quelli che ogni tanto mi dimentico, perché succede che appunto succede che ogni tanto mi manca qualche pezzo. Per esempio, domattina alle 11:30, martedì 28 maggio, alle 11:30, Renato Barilli inaugura la mostra Viaggio intorno alla mia stanza, una mostra personale a cura di Sandro Malossini. Non so nient'altro, però nel caso i nostri ascoltatori conoscano Renato Barilli in qualità di grande critico d'arte e famoso storico dell'arte contemporanea, sappiate che Renato Barilli dipinge anche, dipinge figurativo, e domattina alle 11:30 inaugura all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna la mostra a cura di Sandro Malossini, come abbiamo detto, ed è in Viale Aldo Moro 50 a Bologna, e probabilmente starà su per almeno un paio di settimane, ma non ho questa notizia. Dopodiché devo andare a prendere il mio cellulare perché domani sera, invece, martedì alle ore 19 abbiamo Best Art Vinyl Italia edizione 23, che presumo che sia nel 2024, e abbiamo Best Artworks People Choice Award Ping Pong, intervista con Andrea Renfini e Stefano Passini, che sono appunto gli autori di questo fantastico disco chiamato Ping Pong, e che avete, se avete sentito Coxo Spaziale quando erano ospiti, avrete sentito. Questo è al Sam Music Store in via Oberdan 24F a Bologna, ad ingresso libero, per cui sicuramente li sentirete anche suonare, e questo è domani alle ore 19, appunto, in via Oberdan. Dopodiché mercoledì 29 maggio la nostra amica Giovanna Caimi ha scelto un ottimo giorno, perché non c'è nient'altro quel giorno lì. Alle 17:30 abbiamo la donazione dell'opera Eve, The Snake and the Black Battlements al Mambo. La donazione avviene a coronamento di tre esposizioni importanti: What Remains, a cura di Leonardo Regano, all'ex chiesa di San Mattia nel 2022, Orizzonte, Sommo Orizzonte, accompagnata dai testi critici di Lorenzo Balbi, Valerio Deò e Carmen Lorenzetti, alla Galleria Studio La Linea Verticale nel 2023, e Contatti Indicibili, a cura di Maria Chiara Wang, al Museo Civico Medievale, durante appunto quest'anno, allo scorso Art City, che hanno avuto luogo nel capoluogo emiliano, che sarebbe Bologna, dove l'artista vive e lavora. Intervengono alla presentazione Maria Chiara Wang, Leonardo Regano, Giovanna Caimi, Lorenzo Balbi. Questa è alla sala conferenze del Mambo in via Don Minzoni 14 a Bologna. Dopodiché giovedì 30 maggio, sempre alle ore 18, abbiamo Art Factory, Luca Lanzi, Simona Ragazzi, Bruno Raspanti e Gianfranco Trucchia. Il fil rouge della mostra collettiva è il legame speciale presente o passato che questi artisti hanno con l'atelier Paese dei Balocchi, una Art Factory attiva da oltre 30 anni al piano superiore della PDB Gallery, situata in un affascinante edificio di fine 800 a pochi minuti dal centro di Bologna. In realtà è non lontano da qui, perché la PDB Gallery è in via Zanardi 78 a Bologna. Dopodiché, sempre giovedì, sempre alle ore 18, abbiamo presentazione di Quaderni d'arte italiana numero 09. Quaderni d'arte italiana è una rivista trimestrale ideata dalla Quadernale di Roma ed edita da Treccani, che ha l'obiettivo di fornire uno spazio di indagine sull'arte italiana del XXI secolo e sulle sue relazioni con le diverse scene culturali e sociopolitiche italiane e internazionali. Intervengono Gian Maria Tosatti, artista e direttore artistico della Quadernale di Roma e direttore della rivista, Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, e Elena Forin, curatrice indipendente. Anche questa è la sala conferenze del Mambo, ad ingresso libero naturalmente, in via Don Minzoni 14 a Bologna. Sempre giovedì, non ci vuole il dono dell'ubiquità, bensì il dono della quadrubiquità, abbiamo alle ore 18 Confusione di stelle, meraviglia e bellezza, mostra degli studenti della classe seconda H del liceo artistico Arcangeli, a cura della professoressa Serena Barile, presso la Fondazione Giacomo Lercaro in via Rivareno 57. La mostra è fino al 9 giugno ad ingresso libero ed è appunto in via Rivareno 57 alla raccolta Lercaro. Cos'altro succede giovedì? Naturalmente, sempre dalle 18, anzi fino alle 21, abbiamo appunto Ada Oiselin Sonderland e... no, quello non mi ricordo come si pronuncia, me lo devi dire tu. Nine Kang, with our faces this close. Raccontaci tutto, Mattia. Mattia naturalmente è il direttore di Neven, e questa è una mostra che succede a Neven, una doppia mostra che succede a Neven, perché ha due spazi, come ci hai raccontato la volta scorsa. Esattamente, e per questa occasione portiamo in città due artiste con pratiche molto diverse, momenti diversi della loro carriera, ma che con Ada Oiselin Sonderland, che prenderà lo spazio più grande della galleria, apriamo in realtà una mostra che mezzo mondo ha aspettato per un anno intero. Uday Selin è artista che ha esibito come in gallerie come Marlborough Galleries o 1969 a New York, ed è un artista che ha una produzione lentissima, è quasi è di una meticolosità incredibile. Questa mostra includerà nove nuovi suoi lavori, che sono più o meno il corrispettivo di quanto lei può produrre in un anno intero di senza mostre, e che con uno stile legato all'acquerello e a una tecnica molto particolare presentano in tono figurativo in verità dei lavori che proseguono una pratica molto basata su una ricerca tutta al femminile. Sono le indagini a livello filosofico, erotico e personale di una giovane donna attraverso quello che è un velo di cultura nordica mischiata a qualcosa di orientale, allo stesso tempo particolarmente personale. Sono opere fortissime e allo stesso tempo molto delicate e dettagliatissime. Neon Kang allo stesso tempo invece porta una pratica che è proprio il suo inizio. Lei è una neolaureata dalla molto prestigiosa Accademia di Oslo, che prende per il master solo 12 artisti all'anno, e che come pittrice lei invece sviluppa una tecnica che si basa su, in verità, una ricerca del mai visto, in un certo senso. La maniera in cui lei descriverebbe le sue opere è cercare di dipingere qualcosa che non ha mai visto dipinto e qualcosa che non ha mai immaginato poter essere dipinto. L'intera nuova serie e mostra che sta presentando, che si intitola, come avevi appunto detto, With Our Faces Disclosed, è totalmente sviluppata su l'idea di andare a dipingere quello che si vede quando si è alcuni pochissimi centimetri dalla faccia di un'altra persona. È da un lato la ricerca di un escamotage unico per questi dipinti, che sono in uno spazio liminale tra l'astratto e il figurativo, in cui si vedono questi occhi ripetuti e queste fisionomie che si perdono in un'astrazione di colori, ma allo stesso tempo è una maniera tutta sua di poterci portare in un posto di un'intimità, di una particolarità che è difficile da immaginare fare altrimenti, se si immagina qual è la sensazione, quali sono i sentimenti che vengono quando si è a questa distanza dal viso di qualcun altro. Entrambe queste artiste portano discorsi diversi, ma in una maniera non mi tengo nella pelle, in un certo senso, di poterle presentare a Bologna, perché la Sonderland è un'artista che è stato incredibile il viaggio che abbiamo fatto insieme, dalla sua prima personale oramai 3 anni fa su a Göteborg, e arrivare a questo punto in cui avremo ospiti che volano da mezza Europa per vederla questo giovedì. Neon è una di quelle artiste invece che mi è successo poche volte nella mia storia con la galleria, di entrare nel loro studio e di non sapere cosa pensare, dire una personale non basta, ne vorrei fare due, ne vorrei fare di più. Come direbbe Dieter Roth, non farne due, fanne 50. Fantastico, no, e dunque giovedì non possiamo mancare appunto queste mostre che appunto inaugurano giovedì da Neven in Strada Maggiore numero, non lo trovo, me lo devi 28A. Dire tu, 28A, fantastico. Mentre invece sabato 1 giugno dalle 19 alle 22 e domenica 2 giugno, il 2 giugno è festa, però è domenica, è andata male quest'anno, dalle 17 alle 20 la Sala delle Ciminiere del Mambo ospita in prima italiana la Durational Performance Mike dell'artista canadese Dana Michelle, presumo, a cura di Xing. Dana Michelle è artista, coreografa e performance basata a Montreal, Canada. Prima di conseguire un BFA in Contemporary Dance alla Concordia University, è stata marketing executive, corridore antagonista e giocatrice di football. L'artista esplora l'identità come multiplicità disordinata, con una pratica expanded che si nutre di coreografia, improvvisazione, gesto intuitivo, performing arts, cinema, hip hop, techno, poesia, psicologia, dub e commento sociale. Dunque queste due performance, che durano, come avete sentito, 3 ore l'uno, il primo giorno sabato dalle 19 e domenica 2 giugno alle 17, con ingresso a 10 euro, sono al Mambo, nella Sala delle Ciminiere, in via Don Minzoni 14 a Bologna. E questo è tutto, sono le 20:50, abbiamo ancora ben tipo 2 minuti e mezzo, se non 3, per raccontare qualcos'altro. Cos'altro ci devi raccontare, Davide? Ah, non so, fammi una domanda. Fammi una domanda, fai una domanda a Davide, Davide fai una domanda a Mattia. Mattia, c'è qualcos'altro che dovevamo dire rispetto a queste due fantastiche mostre che stai inaugurando giovedì? Ma... Ah sì. No, io ho una domanda in realtà. Allora, ti sei pentito di aver aperto a Bologna? Non ancora. Non ancora, ok. Te lo richiedo l'anno prossimo. No, però no, la risposta finora è stata oltre le aspettative, dall'apertura appunto dell'Accademia di cui abbiamo parlato prima, di poter portare un artista come Clara Kristalova in città, ma ancora di più mi sto pentendo sempre meno ogni giorno quando vedo le risposte che abbiamo avuto per il calendario che sta a venire. Non posso neanch'io fare troppi spoiler. Mm-hmm. Come il mio compagno di trasmissione, ma per l'autunno ci sono degli artisti incredibili che ci hanno appena dato conferma e siamo solo, io credo, all'inizio di qualcosa che sembra più promettente di come tanti mi hanno detto. Allo stesso tempo mi mantengo abbastanza moderato, non, certo, non si sa mai. Fantastico, io vi ringrazio tantissimo. Ok, scusate, che comunicazione di servizio. Ciao ragazzi, sono un pirla e non ho le chiavi. Questo è Andrea di Panta 80 e non ho capito perché non ha suonato, oppure non funziona più il campanello luminoso, perché qui anziché sentire il rumore di solito si accende una luce per sapere che qualcuno ha suonato, per cui speriamo che Andrea sia riuscito ad entrare, perché altrimenti niente Panta 80, per cui io ne approfitto e posso anche continuare a parlare ed essere in ritardo. Naturalmente scherzo. No, io vi ringrazio tantissimo, è stato un super piacere avervi entrambi qui e spero che appunto grazie a Coxo Spaziale si possa instaurare un nuovo rapporto appunto tra Davide Rivalta e la Neven Gallery, chissà chi lo sa. Però non ci contate, naturalmente. Come al solito vi saluto con le fantastiche parole del nostro direttore di radio, che io ero Stefano W. Pasquini, naturalmente questo era Coxo Spaziale. Diamo un bacio a Mia Daschio su Piei, che è all'ottavo mese di gravidanza, e naturalmente vi salutiamo con le parole del nostro direttore, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Well, you can count on me like a 1, 2, 3. We'll build our own world like the UAE. I'll never get cool like a ICE. Revive your soul with consistency. I'll get you high off my THC. Timeless love like good R&B. TLC to some TLC. You can always count on me. When your energy running low and you just need a hand to hold, remember I got the type of love that don't change. Oh. And when you feel like there's no way out and you can't seem to conquer doubt, remember I got the type of love that don't change. It's such a joy to see you shine, especially because I have seen the grind. Just protect your energy, I'll keep feeding your mind. No more tears, we're welcoming reasons to smile. I'll be here when the seasons change. I've no fear, don't start acting strange. I'll be here when the seasons change. I've no fear, don't start acting strange. When your energy running low and you just need a hand to hold, remember I got the type of love that don't change, no, no. And when you feel like there's no way out and you can't seem to conquer doubt, remember I got the type of love that don't change. I've got